Un saluto da Dario Ricci, seconda tappa del Giro d'Italia, sempre in terra danese, da Herning a Herning, 206 chilometri per velocisti, ha vinto il velocista numero uno Mark Cavendish, che in volata ha battuto l'australiano Goss, caduta all'ultimo chilometro. Per fortuna non coinvolti i big e nessuna conseguenza seria per i corridori. Al nostro microfono l'inviato d'eccezione di Radio 24 dal Giro d'Italia, ben ritrovato Ivan Basso. Buonasera a tutti. Allora Ivan, tappa insidiosa quella di oggi, perché tanto vento, circuito proprio in riva al mare, sembrava quasi di essere al Tour de France. Diciamo che nelle grandi corse a tappe i primi giorni sono sempre molto particolari, bisogna correre con grande attenzione. Quest'anno, con la partenza in Danimarca, l'incognita del vento era sicuramente un fattore molto importante, quindi io e la mia squadra abbiamo dovuto usare molto più energia di quanto normalmente si usa nelle prime giornate, perché sono tappe pericolose, tappe dove un minimo errore può costare molto caro. Stavolta il pericolo è arrivato alla fine, nella volata caduta all'ultimo chilometro. Non mancheranno le polemiche. Da questo punto di vista era un circuito sicuro, un arrivo sicuro? Sì, sicuramente il circuito era molto bello, alla fine strade larghe, sono cadute che capitano ai velocisti, una tappa al Giro d'Italia vale moltissimo e quindi è normale, le cadute esistono da sempre, chiaro che meglio di no, però il circuito era assolutamente sicuro e strade molto belle, ampie, quindi assolutamente nessun problema. E allora grazie a Ivan Basso, lo ritroviamo domani dopo la terza tappa, l'ultima in terra danese, da Orsen a Orsen, 190 chilometri, ancora strade stavolta strette e curve, ancora una tappa per velocisti in classifica. L'americano Finney conserva la maglia rosa con 9 secondi davanti al britannico Thomas, poi a 13 secondi il danese Rasmussen, a 15 l'italiano Boaro, ma lo spettacolo del Giro è appena cominciato.